parlando, ne ho visto tutti i colori, ma è una vergogna, cioè si mette male in testa, se ne va due passaggi e si credono presuntuosi e vogliono i soldi, stanno pagando in terza categoria, c'era uno in terza categoria, grande giocatore all'epoca, adesso è fuori a rango, gli davano 1500 euro a giocare in terza categoria, cose assurde, cioè che ti rimango senza parole. Sì, ma la cosa che più dà fastidio è che soprattutto a livello di grandezza come giocatore è un deterrente importantissimo quello, perché tu gli dai i soldi, no? E loro si convincono di essere già arrivati, di essere già campioni, ma non è compreso che tu ancora non conosci nemmeno le regole, non so di saper giocare, ma non conosci ancora nemmeno le regole del calcio, ma cosa devi. Solo che purtroppo così oggi i giovani, se non gli dai i soldi, no? Non ci giocano, per cui sono così. Vabbè, comunque. Buon per loro, via da Ed, che riescono ad avere guadagni facili. Avanti, Natalia. Yes, sono strapagati, sono viziosi. E chi più ne ha più ne metta. A Bari quasi non andà pure con i moglievi. Il ritiro non è mai successo che andavano con le mogli. Se mio cugino per andare con la fidanzata, quando era a Cagliari, se ne scappava e l'allenatore bere la zotta la ciappava puntualmente e ribuniva nella uscia buffonendo se oh via tutti i colori se ne vedono oggi di giù. Se parliamo poi dei genitori, anche quello c'è molto da dire, anche da lì c'è tanta di quella vergogna che non finisce mai, tu li vedi fra gli allievi, fra i bambini, ma io sto parlando dei bambini di 10 anni, 12 anni, così, i genitori che si affannano, il padre di uno col padre di un altro, e viceversa, e così via, perché? Perché magari, oppure si mettono a voce contro i bambini che stanno giocando, o contro l'allenatore, se la prendono, perché non hanno fatto giocare il figlio, cose, guarda, è una vergogna, nel vero senso, oggi come oggi, se uno poco, dovesse pensare a tutte queste cose, si dovrebbe addirittura dimenticare del calcio, perché il calcio non è più questo, non è più calcio, bensì oggi è un continuo bisticciare, un continuo guerreggiare a livello anche fisico, per cui non è possibile. Vai, Roberto. Sì, poi non arriviamo al discorso delle categorie superiori, che ormai decidono il bello e il cattivo tempo i procuratori, basta vedere cosa è successo con Donnarumma e gli altri giocatori, e con Gattuso, allenatori, adesso anche gli allenatori, cioè c'hanno il procuratore, gestisce tutto, deve dare la percentuale, e Donnarumma mi sembra che ha preso 20 milioni di euro solo Raiola, il procuratore, c'era una puntata di Report un mesetto fa, non so se l'avete visto, ma cose allucinanti, cose vergognose, che poi c'entra anche in mezzo alla politica, calcio scommesse, cioè noi non sappiamo niente, ma ci sono delle cose sporchissime sotto. Ehi, e non è quello, i soldi che hanno avvelenato tutto, Robè. Quando se ne mai più, si vede gli stranieri, ma cosa se ne viene nei nostri? A chi guadagna ne chi su di fuori, poi da se ne ruba i cittadini, ne ridate, ne tutti i cittadini. Gli arabi questi qua hanno rovinato tutto, hanno fatto un sacco di storie per il Superlega e cose del genere, e la FIFA si è venduta agli arabi, al Qatar, che gli ha dato non so quanti milioni di euro per fare i mondiali di calcio in coso, nel deserto, ma dove cazzo si è mai vista una cosa del genere? E infatti, e via, sono di dinari pilotteggiano in tutta, chi ti va nel petrolio? Sai cosa si dice? Si diceva, perlomeno qui a Sassari, anche addirittura in tutta la Sardegna, le diranno a Negavano, luce a Santa Iuzza, o meglio a Santa Lucia, ecco come diceva una volta l'anziano di Sassari. Purtroppo è così, i soldi hanno rovinato il mondo del calcio in una maniera impressionante. Poi non parliamo di questo fatto del procuratore. Ma quando mai io società mi compro un giocatore e devo dare anche 20-30 milioni a te solo perché hai fatto la tramite per ma non ti inanni. A parte il fatto che i giocatori sono usurai, primo, perché se loro fossero stati degli uomini come si deve, delle persone serie, i procuratori non ne avrebbero presi, no io tratto direttamente tratto io, sono io lo sportivo, sono io il giocatore, il campione, sono io e tratto io con la società. Non c'è bisogno di sanguardare la società, infatti li vediamo che sono tutti quanti in debito, soprattutto le grandi società, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, tutte a livello di 400-500 milioni di debito, stiamo vedendo il debito 400-500 milioni, ma è una vergogna, guarda, no, è impossibile. E poi non devi concedere tutta questa differenza, perché gli ingaggi devono avere un limite, perché una Juve, un Milan, un Inter, un Napoli, insomma queste grandi squadre giocano sempre per conto proprio, mentre la classifica diventa sempre di due qualità, di due categorie, la categoria A e la categoria B. Perché? Perché lo sappiamo benissimo che i soldi vince, chi non ha soldi non vince mai. E allora così cosa dovrebbe fare la federazione, la UEFA soprattutto, cosa dovrebbe fare? Mettere dei limiti, no, tu a Rio Galodio dirai questi stipendi e questi soldi devono passare qui da me prima di arrivare a lui, devono passare qui in federazione per vedere se effettivamente deve avere la cifra che la federazione ha imposto. Invece no, è una vergogna, guarda, non viene bene nemmeno a parlarne. Poi parliamo sport, ma che sport? Questo è un interesse vergognoso, Robe. Ma cosa brutta, che tu gli fai il contratto, vi ricordate di Cardi, col contratto firmato per 3 anni e non ribastava, l'anno dopo voleva ancora di più, ma se tu mi hai fatto un contratto per 3 anni e dovresti dare 3 milioni, 5 milioni all'anno, come pretendi che dopo un anno che hai fatto il contratto ne vuoi 8? Ti ricordi tutto il caso che è successo con quella guasta della moglie Vandanara, come ti si chiama? Cose allucinanti, perché ci sono questi imbecilli, poi sono nate tutte queste storie dai momenti di quando sono entrati gli arabi o le russe multinazionali in queste società, perché prima c'erano dei limiti di stipendi. Io mi ricordo quando avevano comprato un giocatore, magari lo pagavi 10 miliardi, era uno scandalo, ma 10 miliardi glieli danno in una settimana, se li guadagnano, di tipo Ronaldo e cose del genere. Sì, ma è così, guarda, tu basta pensare che adesso l'ingaggio di Donnarumma mi pare che sia 2 milioni al mese, insomma pari a 12 milioni l'anno, capita. Ha fatto un contratto per 4-5 anni, ma te lo conto quanti della Sibiglia, un ragazzo di 20 anni appena, è vergognoso veramente, guarda. Voglio parlare poi di quell'imbecille di Dybala, dice grande giocatore, e intanto non è come dice la gente, grande giocatore, è stato un paio d'anni, uno o due anni, ma è diventato una burraccia, è diventata come giocatore. Speriamo che si riprenda adesso con il nuovo anno calcistico e non gli battano 7 milioni e mezzo l'anno. La Juve ne ha offerto 10 e lui vuole 15 e infatti ancora non ha rinnovato il contratto. Ma dimmi tu se ci devono essere queste pretese così assurde. A me la dire, beh, mi hai portato qua introito, ma non me ne hai regalato nulla, tu hai solo preso soldi qua, ti sei arricchito, ti sei diventato uomo nella mia società e ti offro 10 milioni, cioè 2 milioni e mezzo più di quanto ti prendo adesso, nonostante che l'ultima stagione che hai fatto l'hai fatta in maniera pessima, e tu ne vuoi addirittura 15, raddoppiato il tuo budget. Ma non te ne andano, vedi, la verità di un piccolo, la verità l'abbiamo buttato a sentire la parte di fuori e fa carocca, prova a guadagnare dei di soldi a vedere, altro che giocare a palloni, vergognoso, ma è Robè. Scusate un attimino, Bianco. Ma è lì. È vergognoso, sì, e cosa vuoi fare? Infatti io non tifo più a nessuno, mi guardo solo la nazionale quando c'è e basta. E così vale anche per gli altri sport, non solamente per quello. Poi non parliamo del tennis o della pallacanestro, sono ancora più pagati, si può dire. Fate le comparazioni con il calcio, quelli guadagnano ancora di più, quelli del tennis. La pallacanestro, i ciclisti poi non ne valideremo. Il grande campione, che poi chi è il grande campione? Forse Aru? O forse Nibali? O forse qualche altro? Vabbè, ci sono e fuori classe del ciclismo, certo che ci sono, però guadagnano 5 milioni di stipendio l'anno e fuori classe, ma poi c'è il gregario che guadagna 20.000 euro l'anno. E io a te, gregario, ti ho sempre portato tutta la vita la borraccia dell'acqua, che si guasta la bicicletta, mi fermo io e ti do la mia, ma ti tiro il passo, ti porto al traguardo per farti vincere, ma non è possibile, dai, dai. Chiedo un misero gregario 20.000 euro all'anno e il campione 5 milioni l'anno di stipendio più tutto quello che guadagna anche. Non lo so qui ora tali, se sono cose da fare queste. Vabbè dai, su, io vi lascio che devo fare quella roba là, che poi devo mangiare, oggi siamo anche in ritardo. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Natalia, ben sentito, dai, vai giù. Ciao Natalia, ciao. Robe, anche nel ciclismo lo stesso, i campioni 5 milioni l'anno di stipendio, e un gregario, ci sono gregari, la maggior parte dei gregari prendono tra i 20 e i 30 mila euro l'anno, e di 5 milioni, quello gli porta l'acqua, gli porta tutto, gli dà da mangiare, gli tira il passo per 300 km al giorno, si porta fino al traguardo con tutta la fatica che fanno, il doppio di quanto ne fa il capitano, evito quasi la volata e vince. Ecco, la gloria a lui e 5 milioni a lui, evito massimo 30.000 euro l'anno di stipendio, Robè. Adesso quelli che fanno il sacrificio è sempre così. Allora, l'atleta, lo sportivo più pagato del mondo, lo sai chi è stato? Neanche te lo immagini. Non lo so. Al momento so solo che Ronaldo è uno dei giocatori più ricchi al mondo. Poi c'è anche Messi che prende roba di 45 milioni l'anno di cosa, di stipendio dal Barcellona, più tutti gli introiti della pubblicità e varie varie. Per dirti, no, sono loro, poi in altri sport non lo so. Ah, c'è Hamilton, 45 milioni di stipendio per fare 4 ore in macchina all'anno, ma quando mai? Si devono dare 45 milioni per correre con la mia macchina, io a te ti do 45 milioni per correre con la mia macchina costruita da me, ma dico io, ma esiste gente macavio che buttano i soldi in questo modo. Allora, il più l'atleta, lo sportivo più pagato al mondo nel 2020, ha incassato 84 milioni di euro, si chiama McGregor, è un combattente di quelle arti marziali tipo Taekwondo, MMA si chiama, ha preso 84 milioni di euro e ha fatto 2 combattimenti ed è riuscito a incassare 84 milioni di euro, molto di più di Ronaldo, di Messi e di Hamilton. Poi c'era quel giocatore di golf, come si chiama, quel golfista, adesso mi richiamo, che quello è stato per tanti anni il giocatore più pagato. Ma dico, come ti vai tu a pagare uno che fa golf, ha lavorato al pubblico che può fare un Messi o Ronaldo, per dire, uno stadio di 100.000 spettatori, ti porta il pienone Ronaldo e Messi quando vanno a giocare, che sono per dire partite importanti. Che anda, eppure è riuscito a prendere, era per tanti anni il giocatore, l'atleta sportivo più pagato al mondo, quello di golf, quello di colore, adesso non mi ricordo come si chiama. E quest'anno nel 2020 è stato questo McGregor, che è anche buscato dal russo, e c'è un russo gli ha dato questa sussa che mette la troppa. Eppure quello lì ha preso più soldi di tutti. Poi non parliamo dei pugilatomi, cosa prendono quelli che fanno i pugilati ai tempi dei pugili, quelli grossi, dei pesi massimi e cose del genere? Lo so, certo, a livello di Tyson e Rocky Marciano e tutta quella gente lì, è ovvio, quelli prendono un sacco di soldi, quelli prendono veramente un sacco di soldi. E quelli rischiano anche, oltretutto, Robè, quelli rischiano anche la vita, perché quei colpi prima o poi, già lo sai, che non fanno certamente bene, però poi ci sono anche i pugili che fanno da allenatori, fanno e prendono una miseria. E quello, prima di far combattere il campione, quello si è preso 10.000 susse proprio dal campione stesso, perché l'ha allenato magari per 3, 4, 5 mesi di seguito, prendendo colpi a più non posso. Purtroppo è così, non lo so. Ad esempio, noi prendiamo l'unico campione che abbiamo in Sardegna al momento, che è del pugilato, è Delitto, l'unico che poi adesso si è già ritirato. Ma io lo so, perché conosco bene la madre, eccetera. Dice sì, qualcosina guadagna, però sono sempre soldi pochi e ha bisogno di lavorare. E va bene, è riuscito a farsi la sua attività personale, si è comprato degli appartamenti, si è fatto dei B&B, si è fatto poi alla palestra, insomma se la cava. Però a livello così di campione italiano, come è stato detto e come è ancora, non guadagna un granché, mentre invece nei pesi massimi anche lui, vabbè, un peso massimo anche lui, però a livello di titoli mondiali eccetera prendono una banca di soldi, 60-70 milioni per ogni combattimento. Ma è così, purtroppo è così, io non me. Ma devi passare professionista, a me proprio l'altro giorno stavo guardando questo pugile italiano super massimo, pesa 120 kg, una bestia, una montagna di muscoli questo qua. Giovane, mi pare che abbia 23 anni, una cosa, un mostro fisicamente. Ha tracciato tutti qua in Europa, dice qua in Europa non c'è più nessuno. Ma perché non combatti con quelli Kazakistan, Azerbaigian, dice, dove ci sono dei mostri di lì? Devi andare ai professionisti americani e lì ti fanno dei contratti allucinanti. Stavo raccontando un pochettino. Ti fanno fare un po' di collare ai combattimenti con gente che vinci, ti fanno fare per dire 10 combattimenti in modo che tu vinci, ti fai il nome, tutto dice una cosa di business di lì in America, funziona così, e poi dice mi questo 25 combattimenti senza sconfitte, di questi 25 23 per KO, alla fine ti fai il nome, ti fai uno spettacolo grande, ti invitano un pugile bravo, se sei bravo riesci a vincere, se no se buschi ci sono la rivincita e tutto di là. Ci sono i contratti televisivi allucinanti, manager, allenatori allucinanti, e prendono un ambiente, girano centinaia di migliaia di dollari, di lì sono in dollari. E così, per fare adesso diventare professionisti. Sì, ma è così, ripeto, è così. Purtroppo ci sono lì, ma lì ci sono sempre i procuratori che guadagnano, cioè fanno questi incontri con queste cifre così assurde, anche perché loro si guadagnano altrettanto da quel pugile che sale sul quadrato, per cui. Però voglio dire questo io, c'è troppa differenza, non si può assolutamente. Ad esempio, se sei un pugile di peso leggero, non guadagni un granché. Se sei un pugile di categoria massima, allora guadagni abbastanza. Per cominciare a guadagnare bene devi essere almeno medio massimo, se no non guadagno granché, assolutamente. Io mi ricordo, io Tony Burrugna ad esempio l'ho conosciuto benissimo, eravamo amici eccetera eccetera, purtroppo lui è morto ormai da tanti anni, ed era campione del mondo, ma uno di quei campioni del mondo come si deve veramente, un pugile di grandissima classe, lì sì che ti poteva dire veramente nobile arte, perché era veramente un pugile straordinario, ogni ripresa si cambiava tattica, si cambiava, per dire, come lo era lo stesso Duilio lui, come lo era anche altri pugili, però hanno sempre preso pochi soldi, perché sono di categoria leggera, non sono né medio massimi né massimi. Se sei un massimo di soldi li guadagni veramente, se non sei, sempre che sei campione, se la vuoi sia una dunda, allora siamo sempre da capo, fai il sacco e basta, per dire, no, è così, vabbè. Sì, già lo so, poi il pubblico vuole vedere gente grossa, enorme, a vedere uno di 60 kg non gliela fotti nuda, chi attira l'attenzione quando vedi un gigante, 1,90 m per 110 kg, quando vedi quei pugili di lì, cacchio, ti spaventi, dici, E poi chi guadagna non bene in America, a parte i pugili, probabilmente sono quelli che guadagnano tutti, i giocatori di basket e di football americano e baseball, quelli prendono gli stipendi, quelli del basket, cifre spaventose. Sì, ma l'America per dare soldi agli atleti, guarda, sono proprio di una categoria veramente vergognosa. Tu prendi anche i calciatori che vanno a giocare in America, quelli ormai finiti nel senso che ormai sono grandi di età e sono praticamente alla fine della carriera. Vai lì, perché? Perché vanno lì per incrementarsi il conto in banca, no? Se no non sarebbero andati. Perché magari tu prendi ad esempio gente come Beckham, chi si è fatto di là vero ha fatto in America, e altri giocatori lo stesso, grandi campioni, ma lo stesso coso, anche Pirlo è andato e si è fatto di questi ultimi 2 anni, mi sembra che ha giocato in America, ma lo fanno solo per guadagnare parecchi soldi, perché lì i soldi te li danno a carrione, veramente te li danno i soldi, ce lo sappiamo, no? Parlo del calcio, poi non parliamo del basket. Il basket in America è come a livello del calcio qui in Europa, sicuramente è uguale, anzi forse anche di più. Per non parlare poi del tennis, il tennis non ne vedemo. Dimmi tu cos'è che fa il tennis per guadagnare tutti quei soldi, che un tennista guadagna più di un giocatore di calcio, i grandi campioni. Sì, ma la cosa più brutta, che a me mi ha fatto anche un po' di fatica, con un giocatore di golf che faticaccia anche se si allena, si può allenare tutti i giorni, paragonata a una, come si chiama la nuotatrice, Pellegrini, per dire, prende i soldi, sicuramente gli danno dei soldi, non è una bombaraccia, fa pubblicità e tante cose, però il lavoro di un nuotatore, cacco, che stanno giorni, tutti i giorni, mattina e sera, sempre allenare, rispetto a uno che fa cosa, golf, che cacchio di fatica c'è un giocatore di golf paragonato a una Pellegrini, non so quanti chilometri si fa al giorno quella lì, tutti i giorni, per fare un nome alla Pellegrini, la prima che mi è venuto, o il ruolo dei tuffatori, chissà se tutti tuffendi, i sollevatori di pesi, cacchio, che stanno tutto il giorno in palestra, poi vedi questi giocatori di golf, che è uno sport, sarà bello tutto quello che vuoi, però che cosa c'è di fatica? È uno sport per ricchi, di elite. Sì, beh certo, ma così, perché ci sono gli sport poveri, per così dire, poveri, perché in realtà sono sport poveri, e ad esempio, tu adesso hai parlato di sollevatori di pesi, io ce l'ho in famiglia e il sollevatore di pesi, ti puoi immaginare, tu adesso c'è mio nipote che adesso deve andare alle Olimpiadi, a luglio, a mese entrante, sai cosa gli hanno dato? Intanto tieni presente che medaglia di bronzo agli europei quest'anno, 2 mesi fa, primo, è campione italiano, è stato campione d'Europa l'anno scorso, quest'anno era sul podio, dunque medaglia di bronzo, nella categoria dei 61 kg, sai cosa gli hanno dato per andare adesso alle Olimpiadi? Gli hanno dato un premio di 20.000 euro, più 6.000 ne hanno dato 2 mesi fa dalla posizione che ha avuto, perché è salito sul podio terzo, e cioè medaglia di bronzo agli europei. Bellissimo. E lui si allena 4-5 ore al giorno, si allena robe. Perché? Perché lui lo sta facendo di mestiere, quella è la sua attività, perché lui adesso è arruolato all'esercito. Tiene presente che ha 20 anni appena, non tanto, è stipendiato dall'esercito, certo, ma cosa può essere lo stipendio dell'esercito? Non lo so, ma che le diano 2.000 euro al mese per dire, eh? E lui però deve allenarsi tutti i giorni, tutti, tantissimi giorni, dalla mattina alla sera, 4-5 ore. E adesso deve andare alle Olimpiadi, deve andare, è stato già convocato. Poi mi basta guardare il giornale, oppure scrivi Davide Ruio sullo telefonino e ti appare lui. Perditi, no, sono sport poveri, di grandissimo sacrificio, però sono degli sport molto poveri. Ma non trovano neanche spazio nelle televisioni, cioè la gente dice cosa me ne affitto a guardare questo qua, come cavolo si fa, sollevamento pesi, gli alelli, quelli che fanno ginnastica artistica, cose così, la gente dice che piacciono altri sport e la pubblicità quando c'è, infatti non trovano neanche spazio nei canali sportivi queste cose qui. Vedi invece un tennista che c'è il Monteprimi, 300.000 euro, 1.000.000 di euro, cifre così, e se li guadagnano in due partite. E appunto, per dare una decina di colpi di racchetta a una palla, non è possibile. Il tennista guadagna in maniera spropositata veramente, buon per loro, sia ben chiaro, però non si possono accettare, soprattutto pensando a tutta la fame del mondo, che danno i soldi a questa gente così a diventare viziosi, fate tu li vedi, tutti questi. Tu pensa che Ronaldo, oltre ai 31 milioni che prende di stipendio dalla Juventus, durante l'anno incassa roba i 250 milioni, una cosa spaventosa. È chiaro che poi si può comprare le grandissime macchine da 11 milioni l'una, 11, 12 milioni, 15 milioni l'una, e ne ha una serie di macchine, mi pare un assetto 8, tutti di quel livello lì. È vergognoso, soprattutto pensando alla gente che sta morendo di fame nel mondo. Se pensiamo di quello, se parliamo di quello, poi c'è addirittura da piangere, c'è da mettersi a piangere, per carità. Non lo so. Se facciamo un attimino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Ci sono fatte le 19:32, rimandano ancora un pochettino e poi vado anche lo so, ma è tutto business, è tutto pubblicità, cioè tu attiri pubblico, perché è molto, per esempio quello giamaicano. L'Atletica ha avuto un coso di immagine quando c'era quello lì, così quando c'era quello americano, Phelps, quello che faceva nuoto, ci sono state delle esplosioni, oppure quando c'era Tomba, dico, solo che Tomba è stato Marco che i soldi se li ha mangiati quando faceva lo sci, ci sono state, ma un Tomba paragonato a un Gustavo Toni e a Piero Grosso, che quelli che lavoravano la mattina e la sera e non pigliavano proprio stipendi da fame, Tomba non ne parte delle pubblicità, dovevano andare alla trasmissione e gli davano soldi, dovevano fare una pubblicità e gli davano soldi, e ci facevano solo che si ha mangiato tutto. Sì, ma è così, purtroppo è così. Tu prendi Ronaldo, ha rifiutato un contratto che gli avevano offerto 100 milioni quest'anno gli avevano offerto 100 milioni per fare una pubblicità in Arabia, mi sembra che sia, sì, insomma li ha rifiutati perché si doveva spostare. Se fosse stato morto di fame era andato a piedi, non con l'aereo, a piedi sarebbe andato in Arabia. E invece siccome i soldi ce li ha, e allora li ha rifiutati, solo perché si doveva spostare. Per fare magari, che so io, ho 10 minuti di pubblicità, niente di più, non so di quale prodotto, adesso non mi ricordo quale prodotto era. Vale pure lo stesso discorso, vale, questo discorso che stiamo facendo di tanti soldi vale anche per gli attori, per i cantanti, non è possibile, guarda, ci sono grandi artisti che non riescono a sfondare e sono bravissimi, ci sono invece artisti che sembrano delle cornacchie eppure sfondano e fanno tanti di quei milioni e poi vanno in televisione a piangere che gli danno 700 euro di pensione. Una vergogna, guarda, veramente una vergogna. Sto parlando di tanti attori italiani soprattutto. Sì, e perché non parliamo di quei personaggi tipo Fazio, 5 milioni di euro, le ha fatto il contratto per 5 anni la RAI a un imbecille così che dà sta imbecille di litizietto, cose vergognose, no? Non parliamo, non tocchiamo il tasto dei cantanti che io rimango scioccato, finché mi parli di vecchi gruppi rock, roba importante, ma adesso ti vuoi arragliare a cosa, non sai neanche suonare uno strumento perché ti fanno, le canzoni te le scrivono, ti mettono le basi loro, tu ti metti a arragliare e ti danno una barca di soldi. Basta vedere Sanremo cosa è successo negli ultimi anni. Sì, no, ma poi ti aggiustano anche, ti aggiustano la voce, perché non si vuole manco a cantare. Purtroppo è così. È una cosa vergognosa veramente. C'è gente, ragazzi, anche qui in Sardegna, c'è gente che sa cantare molto, ma molto bene, eppure non riesce ad andare avanti, non riesce a sfondare. Mentre invece ci sono tante di quelle cornacchie nel mondo, in giro nel mondo del canto, che sfondano e fanno soldi a palate. Prendiamo ad esempio Laura Pausini, è stimatissima in tutto il mondo. A me, devo dire la verità, non mi piace. Per me ci sono delle cantanti, io parlo sempre di donne, ci sono delle cantanti donne che sono molto più brave di Laura Pausini, eppure non riescono ad arrivare ai livelli di guadagno che fa lei. Guadagnano ugualmente tanto, lo stesso. adesso è tutto commerciale, cioè adesso ti dicono, ti costruiscono loro, ti prendono, sei un bel tipo, oppure c'è un particolare che attira, beh da oggi lo facciamo diventare cantante a questo qua, ti bombardano i produttori, siccome sono tutti travazzati con le case discografiche, con le radio private che molte volte c'hanno, e ti bombardano di quella canzone che può essere il ballo del qua qua, per fare un esempio, la prima che mi viene, la canzone più ridicola del mondo, ti bombardano 24 ore su 24 tutte le maggiori e diventi famoso, come sono diventati famosi questi qua che ci sono adesso, i Maneskin eccetera eccetera, non parliamo di tutti i di Achille Lauro eccetera eccetera, ma parliamo di Vasco Rossi, che non è nessuno, non è mai stato nessuno, l'hanno costruito a puntino, era un DJ che lavorava in una radio, non diciamo i particolari di vita perché sono peggio che mai, e adesso basta che si mette a fare una puzzetta e è diventato un poeta. Sì, a parte lo fatto che è un puzziroso, perché già si vede da come si presenta, tutto quanto messo male, ma quando mai da uno un cantante si deve presentare così? Oggi anche al festival oggi si presentano vestiti da randaggi, come sta dicendo tu quella Achille Lauro, ma che dai, è una vergogna, gente, oppure gente come Bugo, magari che su Bugo, gente come Morgan che si presentano al festival, ma è una vergogna, una volta al festival si presentava l'uomo elegante, l'uomo messo bene, l'uomo soprattutto capace di saper cantare, oppure la donna capace di saper cantare. Oggi invece tutti quanti ce la strada, sono tutti quanti messi male, tutti con la faccia da drogati, perché in effetti sono quasi tutti drogati queste persone. È veramente vergognoso, il mondo guarda, sta andando a rotoli nel modo peggiore possibile, non è possibile che si possa andare avanti. Chissà cosa succederà fra una decina, una quindicina d'anni o fra vent'anni, non lo so. Guarda, da quando hanno tolto il militare c'è stato un peggioramento del sociale spaventoso, non c'è più rispetto, non c'è più educazione, non c'è niente. Infatti io dico, se io sono nipoti, adesso due sono grandicelli, l'avrebbero superato, ma il piccolino di mio fratello che ha fatto 18 anni è un ragazzo d'oro, educatissimo, ma ci sono certe persone, io dico, una bella abbassata di militare, ma di quelli, non dico duro come tempi nostri, militare è solo quella disciplina che ti devi alzare a quell'ora lì, sistemarti la brandina, farti le marce, farti le guardie, eccetera eccetera, vedi che la gente un po' si sarebbe calmata, questi ragazzi sono smandati, li trovi buttati in strada, a pad in terra, nei bar, quelli che hanno la possibilità di andarci, se no magari rubano qualcosa e fanno una rapina e cosa del genere, per divertimento. Una bella passata di militare, e anche le donne mi l'avrei fatto fare, uomini e donne. E certo, beh sì, ma quello sicuramente, fare il militare è la fonte di educazione, sicuramente, questo non ci sono dubbi. Sì, ma io addirittura oggi come oggi incomincerei da certi genitori a educare, perché vogliono educare i genitori, perché non sanno educare i propri figli. Già li vediamo oggi, visto che si stanno formando delle bande anche qui a Sassari, una città molto tranquilla, è sempre stata, e si stanno formando delle bande di ragazzini delinquenti già da 13-14 anni. Capita. Quando cominciano ad andare 60-70 ragazzini a fare balduria durante la notte e a picchiare gli anziani, eccetera, ti puoi immaginare che razza di educazione possono aver ricevuto dai genitori. Ecco perché ti dico che oggi i genitori bisognerebbe incominciare a educare innanzitutto i genitori di oggi, bisognerebbe incominciare a educare, perché non sanno educare i propri figli, perché sono tutti grandi, una massa di disgraziati, fanno i figli e poi li abbandonano per strada per diventare delinquenti, o forse li istruiscono addirittura a diventare delinquenti, si può anche dire così, in seno a certe famiglie, perché già lo sappiamo che funziona così, ma se un babbo è delinquente è chiaro che anche il figlio nasce delinquente, è scontato quello, no? Ma ci sono dei genitori delinquenti, diciamo, che hanno avuto una situazione familiare, ma però certe volte li mettono in riga, i figli li fanno studiare, li spiegano bene, gente che mai è andata in carcere e sa cosa vuol dire, cercano di educarli. Però a me la cosa che mi fa più vergogna, più fastidio, io capito spesso, faccio Piazza Attola, perché faccio Piazza Attola e la via, così via Pettenato, quella che c'è il civico, lì c'è un circolo. Io quello che mi colpisce, vedo ragazze madri con ragazzini di 2-3 anni buttate di lui, loro sedute davanti alla porta fumando, male nel gol, e questi bambini in mezzo alla gente grande, un ambiente schifoso, non parliamo di gente fumando, embriagone, e questi bambini di lì, e donne vedo buttate di lì dentro, mi dà un senso, dico, ma che educazione può avere un bambino di 3-4 anni dove ci sono degli adulti che si mettono a fare a bere, prima di tutto ognuno deve fare che vuole, sicuramente useranno dei linguaggi non normali, perché quando c'è mezzo, non parliamo di cosa educazione può avere un bambino che vede la madre che va in questi locali qua, io dico rimango a bocca aperta. Sì, infatti glielo vediamo poi cosa, come vanno a finire, tu li vedi, si fidanzano, si sposano, dopo 15 giorni si lasciano, una cosa vergognosa, ragazzi, oggi, ui, povera gioventù, caspita, che fine che stanno vivendo, che razza di vita che stanno vivendo. Sì, e beh, tu li vedi oggi ragazzi, belli, alti, bei giovani, soprattutto ben vestiti, eccetera. Tutto questo naturalmente a spese sempre dei genitori che li hanno viziati in una certa maniera. Non dico che devono andare nudi, assolutamente no, ci mancherebbe altro, questo sarebbe un sacrilegio, sarebbe nei confronti dei figli. Però oggi ci sono troppi vizi, troppe cose che gli permettono, e infatti poi vediamo cosa fanno e cosa combinano. È una vergogna veramente, ragazzi. Addirittura oggi è diventato di moda picchiare le donne, ammazzarle. Adesso prendi quel ragazzino che ha ammazzato quella ragazza di 15 anni con una quarantina di coltellate, addirittura è uscito da casa sua col coltello per ammazzare la ragazzina, cioè la sua fidanzatina. Ma io non so che razza di mentalità gli stanno inculcando nella mente a questi giovani, certi genitori, che razza di educazione le stanno servendo, non lo so veramente, guarda, è una vergogna grandissima. E cosa vuoi che ti dica? Sarà sempre peggio, perché i miei figli avranno dei figli, e i figli dei futuri nipoti, se ci arriveranno, ma ci avrò dei nipoti, sarà ancora peggio, perché sta sempre rovinandosi la mentalità, il rispetto, l'educazione. Prima c'erano delle regole, adesso anche i delinquenti che prima avevano delle regole, per dire non toccavano le donne, non toccavano, adesso è una putinuta, vedi dei ragazzotti bulletti, hai visto quelli che hanno ammazzato quel povero ragazzo di colore che era successo tanti mesi fa, quei due bulletti grandi, eccetera. Allora non guardi in faccia anche se la persona è debole, lo devi ammazzare, per dire prima finiva lì, dare uno schiaffo e finiva tutto di lì, adesso nulla, ti cercano, vanno a creare risse, proprio a cercare la violenza. Sì, ma c'è una cosa, è veramente una cosa veramente vergognosa, guarda, non si, oggi come fai tu a fidarti di una persona? Non era molto tempo, discendendo la tenoce uno scende e si è fermato, c'era questo, detto, ma non si è fermato, ho detto guarda non ce l'ho, aspetta che guardo se me ne sono abbassati nel pacchetto, ha fatto il giro, l'altro amico ha fatto il giro dall'altra macchina, ha preso, si è seduto dentro, taiù, poi le moto e passi, e l'ha mandato dove voleva lui. Ma dimmi tu se uno deve fare queste cose, cosa è andato a mondo, guarda, è diventato pericolosissimo. Una volta è sceso un mio nipote nella veloce, anche a lui l'hanno fermato, due giovanottini l'hanno fermato e gli hanno preso la moto. Ha detto dammi il massimo, dammi una sigaretta. Fatto che giù, le macchine stanno, si è fermato, gli ha dato la sigaretta e gli hanno rubato la moto. Ma cosa, guarda, sta diventando una cosa incredibile veramente. Poi tu quando vai a denunciare, che cosa li fai? Non li fai niente, non li fai, perché magari li prendono, li interrogano, li portano in questura, li interrogano e poi li lasciano liberi e continuano a fare la malavita. Ecco come funziona oggi. Ma poveri poliziotti non hanno neanche più potere, perché noi cosa facciamo? Rischiamo, io ho amici in polizia, nei carabinieri, persone anche a livelli alti, diciamo, e mi dicono noi non possiamo fare niente, è inutile, io rischio la vita, l'arresto, lo perseguito, lo blocco, lo porta e subito lo liberano, non gli fanno niente. Adesso quel ragazzino che ha ammazzato quella ragazza, povera ragazza, quelli adesso dicono che non erano le condizioni psicofisiche, alla fine non rivalgono di nulla, ne esce fuori, cioè succede sempre così. l'esempio più eclatante è stato quello di Brusca, quello che ha ammazzato quel bambino, eccetera. Ma l'Italia, la politica e la giustizia è la cosa più ridicola del mondo, soprattutto la giustizia, che ci sono degli scandali allucinanti, eppure cacchio. Io ho sentito uno, me ne ha raccontato uno di fatto, aspetta, cosa è successo, cioè, mi viene in mente, adesso sto cercando di ricordare, che poi l'hanno condannato il giudice perché per il discorso della tutela della privacy, dopo che questo qua aveva fatto un atto gravissimo, giustificato e tolto, ha portato le prove, me l'ha raccontato l'altro giorno un perito di assicurazione, mi aspetta ragazzi molto, questo qua si è fatto un camuffo, la moglie si è sbattuta e si è organizzato un camuffo, poi alla fine si è reso conto che questo camuffo non andava in porto e si è bloccato, ha chiamato il perito, no scusa, lascia perdere che sennò qua rischiamo il fondo, e lui ha detto vabbè, ha avvisato l'assicurazione, blocchiamo tutto quanto, il risarcimento. La moglie, più furba di lui, piglia, mi ha mandato la lettera all'avvocato all'assicurazione, chiedendo dopo una settimana il risarcimento, una cosa vergognosa, hanno fatto causa all'assicurazione, sono andati in causa dal giudice e questo gli ha raccontato tutti i fatti, dopo che è successo tutto e ha tolto queste prove con questa dichiarazione di togliere la denuncia eccetera eccetera, l'hanno denunciato per abuso della privacy, perché queste cose erano sulla privacy, non dovevano mettere in circolazione queste cose. Il perito è stato denunciato e condannato perché ha tolto queste cose qua, ha detto che questo qua aveva fatto un camuffo, dice che non doveva, questo è il giudice. Sì, ma già vi sentiamo tutto quello che è successo, che succede tutti i santissimi giorni, non che è successo, che succede sempre, tutti i giorni, certe sentenze che fanno veramente schifo. Prendi adesso quel disgraziato che ha ammazzato più di 150 persone, ha fatto appena 25 anni di carcere e ne l'hanno tolto, perché era pentito, perché dice che ha aiutato lo Stato, perché ha fatto i nomi degli altri delinquenti come lui, e dice che ha aiutato lo Stato, però ha ammazzato 250 persone. Invece prendi tu un fotografo ingegno, un po' stupido soprattutto, perché è stupido, come se gli su un coso, come si chiama, lì se l'ha fatto da 15 anni, l'ha fatto, e non ha fatto male a nessuno, perché ha scattato 4 fotografie, per dire, no? Mi avrei capito di quale fotografo sto parlando, adesso non mi ricordo il nome, per dire. C'è una vergogna, che tu ha ammazzato 25 bastoni, cioè 250 bastoni ha ammazzato, ha sciolto anche qualche bambino nell'acido, e ha fatto appena 25 anni di carcere. Boh. E invece mi dica, perché ha ammazzato una persona quando aveva 14 anni per vendetta, perché avevano ammazzato il fratello, l'ha fatto a 40 anni e lo stanno inseguendo giorno e notte gli elicotteri nel Nuorese a tutte le ore del giorno e della notte. Infatti i nuoresi si lamentano che la mattina si svegliano con l'elicottero sulla testa cercando Mesina, un uomo di 82 anni che ha fatto anche lui quello che ha fatto, d'accordo, ma non è il caso di andare e di essere così accaniti a trovare un uomo di 82 anni che ormai è anche in nuco, anche se ha fatto l'ultimo reato, dice che ha smerciato eccetera. Ma per dirti no come funziona la giustizia italiana, ci sono delle contraddizioni impressionanti, Robert. Sì, ha detto bene, Messina, l'altro è la Corona. La cosa ridicola, quel Corona non ha ammazzato nessuno, sono un imbecille, ha toccato, ha pestato i piedi, magari a qualcuno doveva pestare. E gli ha dato 14-15 anni, ce li ha già fatti. Messina, questo del bambino era giovane, perché era anche minorenne, tra l'altro, quando l'aveva ammazzato, eppure si è fatto effettivamente più di 40 anni di carcere, sarà fatto 10 evasioni, tutto quello che vuoi, però è finito tutto lì. Cioè, a confronto di quei terroristi di merda, che hanno ammazzato persone innocenti, che gli hanno fatto il coso per qualche radicale, per questo cacchio di Cesare Battisti, che il carcere era troppo duro, la stava prendendo una depressione, perché non tutte le persone che ha ammazzato lui, non parliamo quei brigatisti e tutta quella gente di merda che ha ammazzato un sacco di gente. I giudici sono tutti quanti spostati da un'ala della politica, e per loro era giusto, era in momenti quando si rispondono dice sì, ma erano altri periodi qui. Cacchio, mi ha ammazzato, di quante persone hanno ammazzato a Bologna, la strage di Bologna, adesso non mi ricordo, 30-40 persone, erano altri momenti, ma che discorsi sono? Messina non ha altri momenti lo stesso, non per difenderlo, però cacchio, c'ha 82 anni mi pare Messina, e basta con questo accanimento. Quello che cerca veramente quelli che devi cercare, cacchio. Purtroppo anche la magistratura è tutta mafiosa, ci sono delle cose, basta vedere cosa è successo dopo il Pallonara, cosa hanno fatto contro chi volevano loro, da Berlusconi in giù, cosa hanno fatto. Quando uno non gli piace devono farlo fuori e trovare gli altarini sotto. Adesso tutti quei giorni circuiti, non si sa più niente, quelli di Bibbiano, quelli che avevano preso quei bambini, non si sa più niente, tutto chiuso, finito. Sì, ma poi fanno sempre due pesi, due misure, loro c'è niente da fare. Purtroppo è così. E quello Corona, anzi, da fare cattato quattro fotografie del cavolo, lo stanno ammazzando così, tutti tantissimi giorni lo assibano e lo stanno inseguendo in una maniera impressionante. Non si può fare un accanimento così su una persona, per carità. Capisco che ha fatto delle stupidaggini, ma proprio perché ha fatto delle stupidaggini, quando è da curare, basta. Non è da condannare, ma va 15 anni di galera per cosa? Per aver scattato quattro fotografie. No, assolutamente no, non sta bene. Palamara, voi già lo sapevo, già l'ha raccontato, già ha fatto anche il libro Palamara, come si comportano i giudici, i magistrati, eccetera, già l'ha detto, non è che l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto lui, che lui è un ex magistrato, per cui vede bene com'è. Adesso prende l'accanimento lo stesso, anche su Salvini, anche quello è un accanimento assolutamente assurdo. Come hanno fatto accanimento a Berlusconi, stanno facendo accanimento su Salvini. Perché? Perché Salvini ha difeso l'Italia, ha difeso. Invece le stesse cose stanno succedendo adesso e le navi rimangono lo stesso in mare, in porto, anche 10-15 giorni, quello lì con il ministro dell'interno che c'è in questo momento va tutto bene. Perché? Perché è la politica che riesce a manovrare e a farsi le leggi per conto proprio, già lo sappiamo come funziona, perché sono tutti di sinistra i giudici e i magistrati, per cui vedi bene, due pesi e due misure, sempre per tutte le cose, per tutte le persone che a loro non va a genio. E poi la cosa più brutta, la cosa che proprio mi dà fastidio, adesso c'è la mania del razzismo. Se tu dici una parola, negro, scherzando sei razzista. Se quello dice un brutto pezzo di merda, cristiano di merda, ecco, puoi dire tutto. Però se tu ti permetti a dire a una persona, ma anche scherzosamente, un appellativo, negro, scherzando, facci niente, sei razzista. Cioè la cosa sta diventando, io ho visto oggi una cosa ridicola, mi ha fatto ridere, i cartelli stradali, quelli che ci sono per dire lavoro in corso, quelli di pericolo, sono tutti neri, le immagini sono tutte nere, mentre poi ci sono i cartelli azzurri, quelli per dire piste ciclabili, sono tutti azzurri, con le persone bianche, dice cacchio, quelli cartelli sono razzisti, cioè ci hanno arrivato anche a queste cose così, questa è l'esasperazione, diciamo, cosa, però ogni cosa che fai adesso ti devi inginocchiare, ma inginocchiare di cosa? Ma che cacchio stai a dire? Questi giocatori sono uno scandalo, perché se si inginocchia uno l'altro non si deve inginocchiare, con tutta la gente che hanno fatto, inginocchiati per quelle persone che hanno ammazzato quello, il poliziotto, quell'altra cosa di per la cattiva gestione della funivia, di quelli non si è inginocchiato nessuno, che sono morte, quanto erano, 30, 20 persone, non lo so, tra cui bambini piccoli, di lì non ti inginocchino, mi inginocchio perché hanno ammazzato uno, io non sono razzista assolutamente, però non lo faccio vedere in pubblico che non sono razzista. Ci sono cose molto importanti, invece loro adesso è tutto pubblicità, chi dà culetta, perché non sei inginocchiata l'Italia, ma pulisciti il muccio. Buonasera. Ciao Antonio. Sì, ma è così. Adesso quella è anche quella, adesso in questi campionati europei, una pagliacciata, è inginocchiarsi. Ma ti sembra che uno si debba inginocchiare per cosa? Per difendere chi? Per difendere, si può sapere chi stai difendendo. Una massa di omofobi oppure una massa di delinquenti o di delinquente che ha fatto quello che ha fatto. E le persone si inginocchiano, uno si inginocchia solamente davanti a Dio, non si può inginocchiare per queste cretinate qua, perché queste sono cretinate. Ma anche adesso, l'hai visto? Oggi c'era la fiaccolata perché hanno ammazzato quella ragazza, hanno ammazzato anche la gente cretina, questa ragazza che stavamo parlando poco fa, questa che è stata accoltellata dal ragazzino. hanno fatto una fiaccolata, ma io non lo so a cosa serve questa pagliacciata. Questa è una vera pagliacciata. Per difendere che cosa? Per fare che cosa? Basta, non trovano un appiglio sempre per fare sempre festa. Non è possibile. Ma perché non vanno a fare i lavori seri, lavori importanti e redditizi soprattutto, anziché che andare a fare la fiaccolata o macchine di portare in campo tutte queste persone che fanno sempre certo tipo di manifestazioni? Ma per carità, avanti da me. E a te che sono stato, non c'è altro ben sentito, io qualche minuto ancora e poi vado via a mangiare. Vai a tu. Caro, fai io mio, adesso scendo giù a mangiare, scendo anche io. Ah, ancora stai preparando? Vabbè, dai, mi intrattengo un attimino. Danno le poco le macchine a capo, così, contro ghisso, omofobia, ecco, ma pensa a fate i battitori, pensa. Cioè, se è così la gente perché ride? Perché è un pagliaccio, cosa è? Secondo voi, non è un pagliaccio una persona del genere? Cioè, ma va, smettiamola. Ma poi allora, un'altra cosa, non so se sapete la legge, adesso ci sono le coppie omosessuali, sono libere di fare quello che vuole e c'hanno i diritti, diciamo, diamo i diritti. Una coppia non sposata per la legge non ha ancora nessun diritto, cioè se tu devi adottare un figlio non lo puoi adottare perché non sei sposato, però se sei di omosessuale, gay, allora c'è diritti, cioè diritti superiori a una persona normale, una coppia eterosessuale. Per me, cioè, dico una cosa, cioè, per come la penso io, per quell'atto lì, tu vedi, Mussolini, vedi, proprio davanti, capo di ghisso, per me, pum pum, capito? Per me deve essere uomo, deve essere con una donna e stare con una famiglia, quello, per me è quello, quello che importa, del resto non me la puttinuta. Ma certo che sì, la famiglia si forma, si è sempre formata e deve essere così, formata da un uomo e da una donna, anche per poter mettere al mondo dei figli. Io vorrei sapere che cosa fanno quando due si sposano nello stesso sesso. Queste sono delle pagliacciate nello stesso della parola. Non è possibile. Poi tutti questi omofobi, tutti questi gay, eccetera, sono talmente prepotenti. Tu già li vedi in televisione quando parlano, hanno una prepotenza infinitesimale, ma la cosa vergognosa veramente. Tutto sembra che le sia dovuto. Ma vai a fare la tua vita come ti pare, ti piace, chi se ne frega quello che sei e come ti comporti e con chi ti metti. Non me ne frega un bel niente, ma che gli diano tutti quanti questa importanza, no, è una cosa veramente assurda. Quello è l'errore più grande che abbia mai potuto fare il governo, permettere i matrimoni a persone dello stesso sesso. No, non è possibile, ma, perché la famiglia, ha ragione la Chiesa quando dice è di bocciare assolutamente questa cosa qua, perché la famiglia va formata da un uomo e da una donna, in modo che possano anche creare dei figli, in modo che il mondo va avanti. Invece in questa maniera come fa? Bacca le dai, robe, è una vergogna veramente questa. Vabbè, purtroppo così, dobbiamo viverci, convivere. Io accetto tutto, non è nessun problema, però siamo arrivati a un punto di non ritorno, secondo me. È un punto di non ritorno. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io non mi vergogno di niente, di vedere le persone, però cacchio, ci sono dei limiti per tutto. Purtroppo stiamo andando sempre, sempre peggio. Cambiamo argomento perché sennò ci irritiamo troppo, dai. Di nuovo a te, andiamo. Grazie. Mia Lucariella. Gappa, dai, io vado giù a mangiare, va. A me mi piace la patata, mi piace, il banale volgare. Puttana, sai di chi ci mancante. Vai, buccia le patate. Io buccio le patate e quindi nera. Oh signore, dai, io interrompo, dai, magari se dopo c'è qualcuno ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao Giulio e ciao Luca e eventuali amici qua sul canale 10. Puretti da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao Robè, adesso ci vedrai. Avanti Luca. Sì, ciao Robè, ciao Giulio, ciao anche a Antonio. Antu, un paletto sa che mi ha visto. Luca, l'hai vista quella canzone che ti ho mandato, Luca? Sì, l'ho vista. La giurista. Anto, ci sei? Dimmi Luca. Tu sai che mi ha visto. Sara. Ah, Sara, me l'ha già detto. Mia vita. Sono arrivata alle 3:30, sono andato via alle 5. Un viaggero? C'è altro poco uso lenti. Due fine devi fare, devi fare una fuori e una dentro. Per carità. Oioia. Per carità. Dici che ora io so mangiare, vai. Ci sentiamo dopo. Avanti giù. Ok, a tu. Va bene così. Cosa vuoi sentire? Allora, tu, cosa mi racconti? Stavamo parlando un po' del più e del meno con Roberto. Abbiamo un po' rivangato anche i tempi di prima, il modo di vivere, il modo di educare i figli prima. Oggi è tutto un minestrone, oggi è tutta un ciaramedio e una vergogna soprattutto. E giù, va, niente, ero mi qua in camera che mi stavo cambiando, adesso vado a prendermi l'autobus. Tanto sicuramente dopo non ci sei, io arrivo verso le 8:30 a casa. Dai, ci sentiamo magari domani, ok, ciao, buonanotte e buona cena. Tanto se ci sei ci sentiamo dopo, là, ciao, ciao a tutti, buona cena. Ok, ciao Luca, buona cena anche a te, dai, buonanotte, ciao. Grazie per la chiacchieratina, a domani. Ciao, ciao giù. Okay. bravissima. Ma per che cazzo è? Sera, buonasera. Ma però, allora perché avete parlato in due con Antonio? Cosa hai detto, fra? Detto leggermente amplificata. Leggermente? Non è molto spinta? Ah no, comunque va benissimo, per me è ottima, Ciao Anto, buonasera. Riprendi, dimmi se va bene la radio. Ah, non va male, già va bene. Normale va bene. Vabbè, qua posso fare un sacco di cose, ad esempio andare qua sul broche e aumentare leggermente, portarlo a 60, 1, 2, 3, poi togliere questo, andare su questo e fare che cosa? Non me lo metto B. Si sente un po' più di amplificazione. Più amplificazione, cioè no, va bene, o è troppa? No, non è troppa, è sempre chiara. Ok,